Buongiorno a tutti, siamo qui con Elisabetta in arte Epi per parlare di TAC, perdersi in Islanda. Buongiorno Elisabetta, benvenuta sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Ciao e salve a tutti gli ascoltatori. Allora, innanzitutto come va in Francia, visto che ci stiamo sentendo Italia-Francia? Va bene, qui per i fumetti è molto interessante. Mi sono spostata, prima vivevo in Portogallo a Lisbona, sono venuta a vivere qua proprio per i fumetti, perché qui c'è un bell'ambiente, via, per i fumetti. Bene, ma anziché parlare di Francia, in realtà dovremmo parlare di Islanda, perché appunto il tuo fumetto, Perdersi in Islanda, è un po' il tuo racconto del diario di viaggio o più che altro anche diario di vita, perché ti sei poi innamorata di questa terra. Raccontiamo un po' com'è avvenuto il tuo arrivo in Islanda, perché è una storia un po' particolare. Sì. È una storia non prevista e quindi delle più belle, diciamo, perché in realtà questa storia inizia quando io ho 17 anni. Questo libro è uscito l'anno scorso, cioè in realtà, essendo un mese fa, perché il 2019 è finito un mese fa, è uscito a settembre 2019 per Becco Giallo e quindi avevo 32 anni. E in realtà questo libro inizia quando io ne ho 17, perché a 17 anni io vinco una borsa di studio, io ho sempre voluto andare in Irlanda. All'epoca i documenti si scrivevano a mano, c'era poco fatto a computer e nel trasferimento delle preferenze di dove andare la segretaria si era sbagliata a copiare a mano, aveva scritto Islanda, aveva invertito la R con la S e io sono finita in Islanda con la borsa di studio per un mese e mezzo o due. E poi in realtà sei rimasta. E poi sono tornata varie volte, non era, all'inizio non è stato così felice perché in realtà io ero anche arrabbiata di doverci andare. E poi in realtà arrivata là è stato amore a prima vista. Io sono andata fortunatamente in un periodo in cui ancora non era così turistica. Non c'era il boom turistico che c'è stato negli ultimi anni, quindi era molto molto autentica. Certo, appunto ti innamori di questa terra e decidi di raccontarla, decidi di disegnarla, di studiarla anche. Come è avvenuto il processo creativo di questo libro, di questo fumetto? Allora, l'Islanda ho iniziato già a 17 anni, tornata da quel viaggio, avevo già l'idea di raccontarla perché in realtà è un calderone di storie surreali, perché ha una storia, una posizione geografica, una serie di fattori per cui è un crocevia di persone, di storie, di luoghi surreali. E c'era una potenziale di storia altissimo e ho dovuto studiare e ricercare, perché il problema è stato proprio quello che, essendo l'Islanda un paese un po' lontano da noi, le fonti erano molto difficili da trovare, erano tutte in inglese quelle che si trovavano, ma quelle più interessanti per assurdo a volte erano in islandese, eccetera. Quindi ho fatto vari viaggi in cui andavo e mi rendevo un po' trasparente, quindi mi mimetizzavo e lasciavo parlare le persone, i posti, e spesso andavo senza una meta precisa, senza un obiettivo preciso, e andavo a caccia di storie, letteralmente. Ne ho trovate di molto interessanti, non previste. Certo, il consiglio per andare in Islanda, secondo te il più importante da tenere sempre a mente, fresco? Beh, che si va in un posto che non è né Europa né America. Noi spesso andiamo con la mentalità di vado in Europa o vado in un posto che è Nord Europa. In realtà, geograficamente, mentalmente, culturalmente, è uno dei pochi posti che ho visto io, che mi è capitato di visitare, ed è per questo che mi è interessato, che non è simile a nient'altro. È proprio un posto a sé stante come mentalità, come cultura e storia, e non è né Europa né America. Una cosa interessante che mi è piaciuta molto del tuo fumetto, che è appunto una, come dire, una guida turistica non convenzionale, perché mostri un po' i due lati della medaglia di quella terra, di quel paese, che poi in realtà sono un po' i due lati della medaglia, penso, di qualsiasi paese del mondo. Da una parte la maestosità, la bellezza dei paesaggi, della sua cultura, del cibo, gli usi, i costumi, quindi tutta la quotidianità, dall'altro lato invece i pericoli sia della natura, che è così dirompente, sia anche lo sfruttamento di un ecosistema che invece è molto fragile. Sì, è stato, per esempio, in questi giorni c'è la notizia che c'è una fortissima tormenta di neve e alcuni turisti sprovveduti proprio ieri o l'altro ieri si sono avventurati a piedi fino all'aeroporto e rischiavano l'assideramento perché la tormenta di neve è fortissima e non si può uscire neanche dalle case, non si può andare in macchina, è vietato per propria sicurezza personale, e quindi li hanno salvati delle persone facendole entrare in auto. Se stavano fuori morivano letteralmente di assideramento. Quindi un po' dove bisogna fare attenzione, era stato data l'allerta meteo, i turisti non l'hanno ascoltata, non tutti, alcuni non l'hanno ascoltata e si rischia veramente un discorso molto serio di rassideramento o morte, brutto da dire, ma è così. E per questo che è un posto che anche questo fascino, dove non puoi decidere tu. Noi siamo abituati a vado in un posto, viaggio, decido, oggi vedo questo, domani vedo quell'altro. E lì bisogna venire a patti col posto che ti ospita. E ci ricorda un po' di rimetterci al nostro posto. Certo, l'importanza della natura che è insomma sempre presente e lì si vede decisamente. Mentre per quanto riguarda lo sfruttamento dell'ecosistema, hai parlato con diverse persone che hai incontrato appunto nel tuo viaggio, che ti hanno raccontato come la terra viene sfruttata. Sì, vi è una duplice moneta, come hai detto tu, ci sono due facce, proprio perché in realtà dell'Islanda io ho voluto raccontare, ho avuto l'esigenza di raccontare, perché questo da dire, questo è il primo fumetto al mondo che parla dell'Islanda. In 14 anni nessuno ha mai scritto, perché questo lavoro è 14 anni di ricerca e documentazione, nessuno ha mai scritto un fumetto che spiegasse l'Islanda agli stranieri o che ci provasse. E il problema è proprio questa cosa, che all'estero arrivano delle notizie molto filtrate, molto superficiali, Bjork, le Aurore, il Sigur Rós, e poi non arriva tutta una parte molto interessante di difesa e sfruttamento del territorio per industrie come l'industria dell'alluminio, l'industria idroelettrica, che non sempre sono dei processi così ecologici come uno potrebbe pensare. Certo, sei recentemente tornata in Islanda, invece hai visto qualche cambiamento, se ci sei tornata? No, dovrò tornare quest'anno. Io avevo fatto praticamente due viaggi per vedere proprio la differenza sul momento di quando c'è stata la crisi economica, e poi ero andata l'anno prima, e in quei due anni c'è stato un cambiamento veramente dalla padella alla brace, diciamo. E quello è stato il cambiamento più forte che ho notato. Quando sono andata l'anno prima, quindi 2007, fine 2007, la crisi è stata nel 2008, io sono tornata, non mi ricordo se nel 2008 o 2009. E lì è stato, credo che la crisi finanziaria loro sia stato il loro più grosso cambiamento traumatico, diciamo, degli ultimi anni. A livello ambientale, sociale, culturale, quello è stato il grosso cambiamento. Invece ti volevo chiedere la cosa che ti è più rimasta come usanza, come abitudine che ti ha trasmesso l'Islanda. Una cosa che fa un po' cliché, però è un cliché inteso come cliché che non è cliché, sugli elfi. Loro praticamente, un signore mi aveva portato un giorno in giro a vedere il suo paesino, e c'era una collina degli elfi, e mi ha detto a un certo punto, mi fa, e poi qua ci abitano gli elfi. E io, questo signore era un professore, era una persona molto distinta, faceva anche l'attore, eccetera, ma lei crede agli elfi? Che mi fa, no, io non ci credo. E poi gli ho chiesto, ma quindi qualcuno ci viene a pregare qua? E mi fa, sì, io ci vengo. Quindi in realtà loro credono e non credono, non sono così come dei bambini, insomma, che credono innocentemente, hanno un rapporto un po' più di rispetto, perché per loro gli elfi non sono gli elfi come li immaginiamo noi, stile Disney, è più un discorso di chiamare la natura in un altro modo. Ti volevo chiedere invece, sei al lavoro su qualche nuovo progetto, magari qualche altro diario di viaggio? Ci racconterai magari la Francia, non so. Allora, in realtà ci sono due progetti che non so se con chi li sto facendo, diciamo che li posso abbozzare, non posso entrare nei dettagli. Certo. Uno è un progetto sempre sull'Islanda, che sarà la conclusione di questo TAC, perché la parte finale più selvaggia, diciamo, dell'Islanda, la parte meno introduttiva, più di storia, più di racconti, che chiude il capitolo Islanda, e poi il Portogallo, in cui io ho vissuto 4 anni, e là ci sono anche delle belle storie, quindi questi sono i due progetti. Rimarrò sempre sul filone dei viaggi, su cercare di spiegare dei posti in cui io ho vissuto, quindi per molti anni ho avuto la dinamica di poter capire anche la realtà di un posto, e li proverò a spiegare sempre con l'approccio che ho avuto in TAC. Allora aspetteremo questi tuoi nuovi diari di viaggio. Grazie mille Elisabetta per averci raccontato così bene un paese così lontano da noi, che appunto, come dici tu, a volte si conosce troppo poco, magari in maniera un po' superficiale. Grazie a voi e buona giornata. Grazie.